Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno e benvenuti. Noi siamo pronti con Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, per fortuna, e noi abbiamo il nostro sommario. Andiamo! Se il dolore ogni mese ritorna, agopuntura al femminile, yoga, le posizioni per ritrovare il benessere. Prima o durante? In alcuni casi in entrambe le situazioni. Oggi parliamo di un tipo di dolore che noi donne conosciamo bene, quello che annuncia o segna l'inizio delle mestruazioni. Solitamente non viene da solo, perché lo sappiamo, ama farsi accompagnare da altri sintomi, mal di testa, nausea, cambiamenti di umore, insonnia. Questo è il quadro con le debite varianti. Per molte donne il disagio è fastidioso, ma tutto sommato sopportabile, per altre invece diventa un ostacolo che compromette le normali attività quotidiane. Allora, cara amica, la puntata di oggi vuole essere un'occasione per parlare di prevenzione, di terapia, parleremo anche di agopuntura e di tecniche di rilassamento, ma oggi vogliamo anche affrontare tutti i dubbi e le paure legate ai disturbi del ciclo, a volte molto abbondante, a volte poco abbondante, ballerino, lungo o corto, e fare chiarezza su una malattia che spesso viene chiamata in causa, l'endometriosi. Quindi avremo come sempre tante cose da dirci, da raccontare, da conoscere. Lo faremo come sempre con il contributo di diversi esperti che ci aiuteranno ad affrontare il nostro problema in una prospettiva olistica. In linea con noi il dottor Domenico Vitobello. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Responsabile di ginecologia di Humanitas di Rozzano e specialista del mese di Humanitas, ogni mese un medico, un tema a disposizione. E quindi, dottor Vitobello, questo mese scrivendo a Humanitas, collegandosi sul sito, le nostre ascoltatrici possono trovare una risposta a tutto quello che riguarda il problema del ciclo mestruale e anche chiarirsi i dubbi sull'endometriosi. È così? Sì, certamente, varie risposte che poi insomma possono essere messe in evidenza con altri contributi che si possono trovare sul sito. Naturalmente l'invito è sempre, noi siamo qua, quindi essere benessere @radio24.it. Dottore, prima o durante? Teniamo queste due parole chiave per introdurre il tema di oggi. Voi parlate di sindrome premestruale, se il dolore compare nei primi giorni della mestruazione parlate di dismenorrea. Inquadriamoli e proviamo a tratteggiare il profilo di donna più a rischio. Brevemente, la dismenorrea è il dolore proprio che accompagna le mestruazioni, generalmente si verifica qualche ora o 12 ore prima dell'inizio del ciclo, e generalmente se parliamo di dismenorrea primaria, se inizia subito con i primi cicli mestruali, generalmente è una condizione, diciamo così, parafisiologica o fisiologica, difficilmente accompagnata a una motivazione, cioè una causa organica, un disturbo. Invece dismenorrea secondaria, quella che può comparire nel corso della vita fertile, può essere accompagnata invece a delle patologie, non sempre naturalmente maligne, brutte patologie, però delle patologie che devono essere un campanello d'allarme per fare poi una visita. Queste patologie brevemente possono essere endometriosi, fibromi, o a volte, anche se compare una dismenorrea secondaria, può essere anche senza causa, una predisposizione personale dottore, ad avere uno stimolo doloroso e lo si percepisce in misura maggiore rispetto ad altre donne. Sindrome premestruale, già la parola sindrome accende dei pensieri? Sì, certo, la sindrome premestruale invece è una condizione diversa. La sindrome premestruale può essere, diciamo così, presente per alcune donne in maniera importante, per altre sfumate, qualche donna ad esempio non ce l'ha proprio, fortunatamente, ed è accompagnata da un cambiamento di umore, una, diciamo così, a volte una stanchezza, cefalea, quindi gonfiore alle caviglie, mal di testa, emicrania, sono tutti sintomi che sono determinati da un iperestrogenismo, cioè un aumento di estrogeni. Ultimamente invece si è fatta anche una teoria di una ridotti livelli di serotonina, di cui si parla anche molto per altre disturbi, e questa Perché la serotonina? Perché si ha l'irritabilità, il cambiamento d'umore, la depressione, e questo è un, diciamo così, un veicolo, un ormone, una sostanza che può determinare questi. Infatti, proprio la caratteristica della sindrome premestruale è che ha sintomi fisici e sintomi emotivi, certo, psichici. Senta, dottore, però noi l'abbiamo detto, parleremo anche di irregolarità, di disturbi del ciclo. A volte troppo lungo, a volte troppo corto, abbondante, troppo leggero, insomma, ballerino. Lei dovrà aiutarci a capire il confine tra fisiologico e patologico. Introduciamo, per dare due parole chiavi, due spunti per le nostre ascoltatrici, che possono comunque già iniziare a chiamare all'800 24 00 24. Questa è una sorta di sommario ragionato, dottor Vitobello. Andiamo allora con le irregolarità del ciclo. L'irregolarità del ciclo, innanzitutto bisogna sempre valutare fin dalle prime mestruazioni qual è il ciclo caratteristico per quella donna. Sì. Non tutte le donne hanno un ciclo regolare, ma non per questo è patologico. Sicuramente se nel corso della vita invece il ciclo cambia, soprattutto dopo i 40 anni, quindi può diventare più abbondante o comunque diventare più corto, nel senso che la mestruazione invece di ogni 28 giorni, ogni 15-20 giorni, può essere questo sì un campanello d'allarme che deve richiedere poi una visita e un accertamento. E veniamo alla parola che si sente sempre più spesso pronunciare, che molte volte viene usata per spiegare il dolore mestruale: endometriosi. Dottor Vitobello. Sì, non basterebbe credo una puntata per parlare dell'endometriosi, perché è un capitolo molto importante, perché è diventato sempre più frequente, soprattutto negli ultimi 10-20 anni, perché è una patologia che forse negli anni passati, negli anni 50, a causa delle gravidanze che si avevano in età molto giovanile, questa patologia non si metteva in evidenza. Questo perché? Perché l'endometriosi è il tessuto che si ha nell'utero che mestrua, può essere presente anche fuori dall'utero, sulle ovaie, sull'intestino, sulle tube, e quindi quando la donna mestrua anche questo tessuto e può dare origine a dei noduli, a delle cisti. Chiaramente, essendo legato al ciclo mestruale, la gravidanza, quindi assenza di mestruazioni per lungo periodo, è una cura sicuramente. Quindi se si ha una gravidanza in età molto giovanile, probabilmente piccole aree di endometriosi vengono eliminate con l'inizio della gravidanza. Allora, 800 24 00 24, vi abbiamo dato alcuni spunti per intervenire, per scrivere, lo state già facendo al 349 238 6666, ma procediamo per ordine. Iniziamo dal primo. Dottor Vitobello, lei ci ha già anticipato quali possono essere i sospetti, no? le cause della sindrome premestruale. Si parla anche del deficit di vitamina B6, no? Che provocando uno scarso livello di serotonina potrebbe essere la causa di sintomi legati alla sfera emotiva, ma sappiamo che c'è anche ritenzione idrica e dolore mammario. Questi da che cosa possono essere causati? La vitamina B6, come lei giustamente ha accennato, nota anche come piridossina, è una vitamina che agisce sul sintomo. Tuttavia bisogna stare attenti, perché ad esempio dosaggi molto elevati può portare a un'ipervitaminosi, cioè un aumento di questa vitamina B6 all'interno del sangue, e a lungo andare può determinare anche delle alterazioni, anche se lievi, a carico delle fibre nervose. Quindi di queste sostanze che vengono usate come anche diuretici per diminuire la ritenzione idrica devono essere sempre usate sotto prescrizione medica. Assolutamente. Perché l'autoprescrizione di queste sostanze, uno dice vabbè, sono vitamine, però possono avere a lungo andare anche queste delle lievi conseguenze. Bene, ma adesso sentiamo invece la lettura che dà la medicina tradizionale cinese alla sindrome premestruale. In linea con noi abbiamo il professor Emilio Minelli, vice direttore del centro collaborante dell'OMS per la medicina tradizionale all'Università degli Studi di Milano. Professore, bentornato. Buongiorno. Professore, ma la medicina tradizionale cinese come spiega la sindrome premestruale? La spiegazione che dà, diciamo, è vario genere, ovviamente è una metafora, una bellissima metafora, e in qualche modo da un certo punto di vista non si discosta forse da certe spiegazioni che oggi la moderna scienza dà di questa sintomatologia. Vengono descritte cause di tipo essenzialmente psicosomatico, cause di tipo legate invece a disfunzioni d'organo, quindi a problematiche di tipo ormonale, a problematiche legate a cattiva circolazione di sangue, vi dicendo, e le problematiche invece legate a problemi inerenti all'ambiente, quindi colpi di freddo, problemi legati a umidità o all'ambiente, diciamo, particolarmente freddo e umido in cui la donna vivrebbe. Per cui voglio dire, vi sono aspetti, per esempio quelli legati alla tensione, alla situazione emotiva, via dicendo, che sono sicuramente più presenti oggi, ma anche altri sono interessanti. Dottor Vitobello, non esistono test di laboratorio in grado di diagnosticare la sindrome premestruale. Gli esami del sangue e delle urine però sono utili per accertare che non vi siano altre cause a scatenare questo problema. La diagnosi della sindrome premestruale è quindi basata, se non sbaglio, sul carattere ciclico, mensile della comparsa dei sintomi, perché compaiono generalmente nella settimana che precede la mestruazione. Ma quando è il caso di procedere ad accertamenti? Allora, sicuramente questa sindrome premestruale si manifesta, diciamo così, intorno ai 20 anni, quindi la donna impara a conoscerla, impara a identificarla ed è la stessa donna che poi va dal ginecologo, dal medico richiedendo una cura. Non esistono, come ha detto giustamente, degli esami che possono mettere in evidenza o diagnosticarla, perché è basata fondamentalmente sull'anamnesi, cioè su quello che riferisce la paziente. Non ci sono esami che possiamo fare e non ci sono nemmeno delle situazioni che possono accompagnare la sindrome premestruale che sono patologiche, cioè non ci sono delle patologie che possono portarla. Tuttavia non bisogna confondere la sindrome premestruale con altri sintomi che possono comparire, che sono invece imputabili ad altri organi o ad altre sfere. Mi faccia un esempio. Non so, ad esempio il gonfiore agli arti inferiori. Ne abbiamo parlato proprio ieri. Il gonfiore addominale. Se compaiono all'inizio, anche prima delle mestruazioni, ma non si sono mai verificati, richiedono sicuramente un accertamento, che possono essere di altra natura, magari banale, ma comunque di altra natura, ecco. Io faccio un salto a Catania, c'è Agatino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, sembra strano magari per un uomo chiamare in questa circostanza, però chiedo questo al dottor Vitobello. È un caso un po' particolare, perché non c'è un problema di stato interessante, però una mia familiare, ragazza di 22 anni, si ritrova praticamente che da 3 mesi non ha più il ciclo. Io volevo delle indicazioni, più che altro da un medico specializzato, magari nella nostra zona qui a Catania, ottenere dei consigli magari per capire cos'è, perché ho riscontrato che in realtà questi problemi, come gonfiore le gambe, aumento di peso, si verificano una ragazza di 22 anni, è aumentata quasi 12 kg in pochi mesi. Ecco, cosa vuol dire il dottor Vitobello in merito? Allora, Agatino ha fatto la sua scelta, dottor Vitobello. Sì, non ho capito benissimo la domanda. Comunque... Allora, questa ragazza giovane da 3 mesi non ha il ciclo, avverte dolore, gonfiore alle gambe e all'addome, è aumentata di parecchi chili e Agatino chiede quali sono gli accertamenti, il medico di riferimento, che cosa si può fare. Allora, innanzitutto bisogna escludere una gravidanza, perché aumento di peso, gonfiore agli arti inferiori, assenza di mestruazioni, è chiaro che il sospetto viene. Il test di gravidanza è basilare. Se si è escluso col test di gravidanza, una gravidanza in corso, naturalmente probabilmente questo aumento di peso importante che si è avuto può incidere sull'andamento ormonale. Sì. Non necessariamente è una causa ginecologica, probabilmente è una causa secondaria all'assenza di mestruazioni, legata probabilmente a una disfunzione ormonale che ha caratterizzato il gonfiore e l'aumento di peso. La mandiamo dal ginecologo? Prima del medico di famiglia, sicuramente, certo. Che meglio può dare un inquadramento e gli accertamenti da eseguire, poi sicuramente il medico di famiglia provvederà anche alla visita ginecologica. Dottor Minelli, professor Minelli, io tornerei un attimo sul dolore, perché arrivano davvero tanti messaggi relativi a questa sindrome premestruale, che disturba, per alcune di noi è solo fastidiosa, per altre è veramente invalidante. Molte di noi si affidano all'agopuntura, sia per alleviare i sintomi, direi nella fase acuta, sia per fare prevenzione. Ci sono evidenze scientifiche? Qual è il profilo di donna che può trarre il maggior beneficio dagli aghi per quanto riguarda la sindrome premestruale? Le donne che soffrono più di sintomi psichici o di sintomi fisici? Ma dunque, diciamo che sulla problematica dismenorroica e premestruale, due sintomi che a volte sono indipendenti ma che qualche volta, diciamo, possono viaggiare anche insieme, cominciano ad esserci i primi risultati provenienti anche da revisioni sistematiche. Sì. E sono non conclusivi ma sono incoraggianti. Proprio l'altro giorno ne vedevo una dove hanno selezionato qualcosa come 273 lavori per una diciamo, disciplina agli albori della sua passaggio scientifico come l'agopuntura, sicuramente è un lavoro importante, un lavoro da tenere in considerazione. Sicuramente il trattamento, diciamo, con agopuntura si indirizza principalmente verso il sintomo doloroso per quanto riguarda la dismenorrea, tuttavia anche per quanto riguarda la sindrome premestruale gli effetti possono essere positivi e interessanti, perché comunque l'agopuntura ha dimostrato una sua capacità di intervenire anche a livello di squilibri ormonali, come per esempio lo squilibrio estroprogestinico, i livelli di prolattina, insomma situazioni che si possono trovare alterate, diciamo, in queste situazioni di tipo doloroso e di disagio. Ma professor Minelli, quanto dura un ciclo di agopuntura per avere dei risultati? Ma in questo caso può durare anche abbastanza poco, perché per quello che si comincia a intravedere, diciamo, è preferibile usare dei cicli intermittenti, cioè utilizzare 3-4 sedute di agopuntura e poi dopo fare dei richiami di volta in volta prima della comparsa del ciclo successivo, quindi non è un trattamento da protrarre a lungo nel tempo, è da protrarre a lungo, diciamo con molte sedute, ma è da protrarre invece nel tempo seguendo la donna per 4-5 cicli. Dopodiché ci sono periodi anche abbastanza prolungati di un anno o due in cui la donna sta meglio, presenta benessere anche nella presenza dei famosi giorni dell'ira. Professor Minelli, la medicina tradizionale cinese dedica particolare attenzione anche alla dieta. Ci sono dei suggerimenti? No, ovviamente vi sono degli alimenti che vengono indicati come degli alimenti che, diciamo, che ostacolano la circolazione del sangue, la circolazione dei liquidi, che fanno trattenere liquidi, e in questi casi sono in qualche modo sconsigliati. Per esempio viene sconsigliata l'assunzione di formaggi, viene sconsigliata anche l'assunzione di eccessive quantità di frutta e verdura crude, che invece vengono consigliate cotte o cotte a vapore. Sì. E viene consigliata l'assunzione di cibi che invece hanno la caratteristica di favorire la mobilizzazione dell'energia, del sangue, dei liquidi, che sono cibi per lo più un po' piccanti, quindi agliace, peperoncino, zenzero, tutti questi cibi vengono in qualche modo consigliati. Ecco, io ho trovato veramente diverse ricette di zenzero, che sono di tisane allo zenzero, di utilizzare lo zenzero anche grattugiato fresco proprio per alleviare un po' questa sintomatologia. Invece al dottor Vito Bello chiedo il suo parere riguardo all'assunzione di magnesio. Viene suggerito, indicato in molti casi. Che cosa dice la letteratura scientifica a questo proposito? Possiamo assumerlo, autoprescrivercelo, assumerlo senza problemi, o bisogna fare dei distinguo? Allora, anche il magnesio, naturalmente, siccome viene assunto per un sintomo, prima bisogna avere la conferma del medico che quel sintomo non è imputabile ad un'altra patologia. Sì. Quindi poi possiamo assumerlo tranquillamente, viene utilizzato spesso nelle cefalee senza causa, e quindi può essere utilizzato anche nella cefalea della sindrome premestruale, oppure anche nella cefalea durante le mestruazioni, perché comunque ha un buon vantaggio. Deve essere usato comunque per lunghi periodi di tempo, perché il dosaggio naturalmente deve essere accumulato. Ecco. Certo. Saluto il professor Minelli, che ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Buongiorno, professore. Buona giornata anche a voi. Grazie. Grazie davvero. E io vado da Emma, ci chiama da Torino. Buongiorno Emma. Buongiorno. Io, come ho detto, ho 40 anni. Sì. E volevo fare una domanda, perché nella storia del mio ciclo ho notato, diciamo così, una progressiva diminuzione dei giorni, no? Tra una mestruazione e l'altra. Posso dire che fino a 30 anni eravamo sui 28-30 giorni, poi siamo passati a 22-24, e adesso, se devo dire, proprio nell'ultimo trimestre ogni 20-21 giorni, però non ho altre sintomatologie, non ho mai avuto mestruazioni dolorose, cosa devo aspettarmi? Se è fisiologico legato all'età, o se mi consigliano degli accertamenti, degli approfondimenti? Grazie Emma per questa bella domanda. Dottor Vito Bello. Sì, allora la cosa importante da, da definire che quando il ciclo mestruale è corto e si abbassa e arriva ogni 20 giorni, vuol dire che abbiamo almeno 2-3 cicli in più all'anno. Sì. Questo può portare a un'anemizzazione cronica. Quindi spesso appunto la donna non si accorge che il ciclo si accorcia e quindi va incontro all'anemizzazione, e poi si accorge magari dopo un anno o due che i livelli di emoglobina sono bassi e quindi bisogna ricorrere poi delle cure più importanti. Sicuramente 20-21 giorni siamo in una condizione al limite, ecco, un conto sono 25-26 giorni, quindi 3-4 giorni in meno siamo ancora in condizioni fisiologiche. 21 giorni sicuramente è necessario un accertamento e una correzione del ciclo. 800-24-0024, se volete intervenire, chiamateci, parleremo anche naturalmente di endometriosi, parleremo dell'importanza della visita, dei controlli da fare. Torneremo naturalmente sul discorso di questo ciclo ballerino, perché dottor Vito Bello conta anche l'età della donna. Certo, per quanto riguarda il ciclo è chiaro che nelle due fasce estreme, cioè nell'adolescenza e nella premenopausa, il ciclo naturalmente subisce delle variazioni che possono essere fisiologiche in quest'età. Accidenti, per dove sei passata? Ah, Davino, sono proprio di pessimo umore. Ah, tu? Io avevo intorno il cast del padrino. Devi imparare a farci l'abitudine. Quei due non potevano che chiamarsi Ciccio. Ok, ti prego, mal di testa, va bene? Ehi, sei davvero di cattivo umore. Devi avere certamente le tue cose. Non ho affatto le mie cose, Cribbio. Appena cade qualcosa fuori dell'ordinario, tu pensi immediatamente che abbia le mie cose. Dillo più forte, forse qualcuno non ha sentito. Ecco, allora, una risposta ci arriva da questo breve estratto per Giordano, che mi scrive: la mia ragazza durante il ciclo diventa nervosa e tra parentesi mi mette verso di me, piange, va in depressione, diventa gelosa e insopportabile, che consigli mi date? Ecco, non le dica, caro Giordano, ecco, sei nervosa perché hai le tue cose, o le mestruazioni, o il ciclo, poi ci sono mille modi di chiamare le mestruazioni. Dottor Vito Bello, mi dia lei un consiglio, non da ginecologo, da uomo. Allontanarsi dalla fidanzata. Ma bravo lei! Sicuramente, no, nel senso che comunque bisogna... Non è carino per nulla non lei. Non ci sono rimedi, nel senso che purtroppo noi uomini da uomo non possiamo capire qual è questa situazione. Poi siete voi che ci dite che siamo nervosi, dite sei nervosa perché hai le mestruazioni. No! No, non va detto. Non va detto, sì o no? Sicuramente ci sono quei fattori che abbiamo detto che possono, sono già, aumentano la soglia dell'irritabilità e quindi qualsiasi fattore predisponente può accentuarla. Senta, ma i compagni o i mariti magari delle sue pazienti che la accompagnano a una visita la prendono un po' da parte e le dicono: senta, lei è proprio insomma, la mia compagna è davvero insopportabile, dottore mi aiuti, le dia qualcosa? Può succedere, sì, può succedere. Però lei a loro cosa dice? Le coccoli, le stia vicino, no. Che mi sembra di essere un panda quando sento queste cose qua. Sì. Ecco, lasciateci vivere. Io andrei da Serena, che ci chiama da Roma. Buongiorno Serena. Buongiorno. Le capita che qualcuno le dica sei nervosa perché hai le mestruazioni? Tantissime volte. Lei cosa fa? Ecco, ribelliamoci. Lei che cosa fa, Serena? Io studio, mi sto laureando in legge. Bene. Allora diventerà un famoso avvocato. Intanto ci racconti, qual è il suo problema? Dunque, guardi, il mio problema è questo, che a parte il fatto che durante il periodo precedente, il ciclo mestruale, ho dei disturbi terribili, insomma, forti mal di testa, dolori mestruali, cioè dei dolori che mi fanno pensare di avere il ciclo da un momento all'altro, dei dolori fortissimi. Il mio problema, oltre ad essere questo, è il fatto che io ho dei dolori anche durante l'ovulazione, ma soprattutto durante il ciclo mestruale. Il mio problema è che questi dolori non passano con nessun analgesico, con niente, e quello che mi dà più fastidio è che a volte sono anche debilitanti, nel senso che io a volte non riesco neanche a camminare. Dicevo prima la signora che mi ha risposto al telefono che una volta dovevo sostenere un esame, sono dovuta tornare indietro perché non riuscivo neanche a stare in piedi. Ho fatto diverse visite ginecologiche più che altro per avere dei pareri, sì. Però a quanto pare il mio apparato è normale, è tutto nella norma, però nonostante questo io continuo ad avere un'ovulazione dolorosissima, dei dolori mestruali atroci, ma soprattutto un ciclo mestruale che per me sta diventando un incubo. E lo credo, Serena. Perché poi, ripeto, io passo praticamente delle notti in bianco perché non riesco neanche a dormire. E poi, poi Serena, ci sono anche, ci sono le persone che ci stanno intorno, no? E che magari non si rendono conto di quanto in alcune situazioni questi dolori possono davvero essere invalidanti. Ti dicono, dai, se per un po', no, avrai, che cosa avrai poi? Sono mestruazioni, devono fare male. Dottor Vito Bello, vogliamo toglierci un po' questo complesso, questa sorta di pregiudizio? Sì, beh, certo, per noi ginecologi è più facile perché incontriamo queste donne e quindi siamo vicino al problema. Per chi non è medico naturalmente è più difficile poterlo comprendere. Tuttavia non abbiamo fatto accenno prima, parlando di dolori mestruali, di dolori d'ovulazione, all'utilizzo degli estroprogestinici, cioè della pillola. Non tutte le donne possono prenderlo, spesso le donne che cercano figli hanno dolori mestruali, dolori d'ovulazione, quindi non possono prendere la pillola, e queste sono i pazienti più difficili perché l'estroprogestinico riassetta il livello ormonale e nell'80% dei casi, non in tutti, ma almeno l'80% dei casi, attenua o risolve questo tipo di dolori. Quindi questo di Serena, che ha già fatto numerose visite, potrebbe essere, con naturalmente i dovuti accertamenti, gli esami eccetera, un caso risolvibile con la pillola. Se tutto va bene, sì, se può assumerlo, certo. Noi parleremo anche, insieme a Lisetta Landoni, di alcune posizioni yoga che possono rilassare. Il dottor Raffaele Mauro mi scrive: un rimedio per i disturbi legati al ciclo ci sarebbe l'agopuntura, ma dico al dottor Mauro che ne abbiamo già parlato col professor Minelli. Andiamo a Deborah da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie Deborah. Dunque, io volevo... cercherò di essere il più precisa possibile sul mio ciclo mestruale. Io ho sviluppato a 12 anni, ho avuto da sempre, ora ho 40 anni, da sempre un ciclo mestruale con un flusso molto abbondante, con un intervallo di 22-24 giorni, sì, e un ciclo che durava circa 8 giorni. Ho due bimbi, dopo il secondo parto, 5 anni fa, ho avuto dei problemi di endometriosi, mi hanno asportato un polipo, sì, e ho delle sospensioni del ciclo che durano anche 5-6 mesi, o viceversa dei cicli che durano anche 2-3 mesi, sì, ininterrottamente. Abbiamo fatto degli accertamenti, varie visite, si era anche prevista la possibilità di una menopausa precoce, che sembra non esserci, sì, però continuo ad avere questi continui sbalzi, naturalmente con tutto accompagnato da un'anemia ormai credo cronica, e quindi con uno stato di stanchezza continuo, perché sostanzialmente tra un ciclo e l'altro, calcolando i giorni di durata del ciclo, io ogni 15 giorni ecco la mestruazione, senza altri sintomi, per cui non ho fastidi, non ho nessun tipo di dolore, però ecco un ciclo ravvicinatissimo e ultimamente anche che dura, come dicevo, 2-3 mesi ininterrotti. Volevo capire se mi hanno anche consigliato di fare una visita per vedere se c'erano delle cellule tumorali, perché mi dicevano che uno sviluppo tardivo, mi hanno spiegato che il mio sviluppo a 12 anni è tardivo, e che avere questa sintomatologia intorno ai 40 anni potrebbe portare a dei problemi di tumori al seno. Allora Deborah, giriamo tutto questo racconto dettagliato al dottor Vito Bello, e dottore, voi vi trovate davvero con delle storie, no? Molto particolari, ogni caso sempre in medicina, però voglio dire, la storia di Deborah lo dimostra, questo ciclo ballerino, ha fatto diversi esami, ma alla fine uno vorrebbe arrivare ad avere un ciclo regolare, possibilmente senza tanti problemi, e soprattutto verificare che cosa porta tutti questi disagi. Dottor Vito Bello. Certo, come accennavo prima, i problemi spesso di alterazioni mestruali, come il caso di questa signora, si verificano alle due estremità della vita fertile della donna, cioè prima dei 20 anni, quindi nell'adolescenza, e dopo i 40, cioè quando ormai la riserva ormonale si sta esaurendo e quindi può più facilmente dare origine a delle alterazioni. Sì. Sicuramente è una condizione da risolvere, questa della signora che ha telefonato. Non abbiamo parlato ad esempio dei dosaggi ormonali che vanno appunto effettuati. Ecco, allora io vorrei, proprio approfittando della nostra ascoltatrice, entrare nello studio di un ginecologo, dopo essere naturalmente andati dal medico di base. Quali sono i controlli che una donna deve fare quando ha un ciclo, quando ha problemi di irregolarità di ciclo? Allora, i controlli sono controlli ormonali, non vi cito naturalmente gli ormoni anche perché hanno nomi pronunciabili. No, ma noi capiamo. Ecco, ma sicuramente non bisogna dimenticare che esistono anche altre alterazioni, ad esempio la tiroide, l'alterazione della tiroide può portare a un'alterazione del ciclo mestruale. Sì. Ad esempio, un'insufficienza funzionale di alcuni organi, come ad esempio l'ipotalamo, possono portare all'alterazione del ciclo mestruale. Quindi sicuramente gli ormoni, un dosaggio ormonale di tutte queste ghiandole che abbiamo, sì, possono mettere in evidenza un deficit che può essere corretto quindi farmacologicamente e risolvere il problema che sta a valle, cioè che è praticamente l'alterazione mestruale. Quindi facciamo questi esami per valutare la situazione ormonale e poi, dottor Vitobello, basta questo? Ci vuole un pap test, un eco? Io ho sempre messo in evidenza il fatto che, dando per scontato che lo screening, cioè la visita ginecologica e il pap test siano normali e negativi naturalmente. Certo. Poi si può affrontare il problema dal punto di vista più diciamo così ormonale, escludere sempre ogni causa organica. Tornando alla storia della nostra ascoltatrice, lei, non avendo gli esami sotto mano, non potendola visitare, certo, eccetera, ma un consulto rapido, dove e in che direzione la orienterebbe? Sicuramente nella valutazione degli ormoni, e escludendo naturalmente che una visita ginecologica e un pap test siano negativi, e in base alle valutazioni ormonale puoi prendere le varie direzioni. Allora, noi tra poco parleremo di endometriosi, una patologia che viene spesso tirata in ballo quando si avverte il dolore mestruale. Laura, buongiorno, ci chiama da Como. Laura? Ciao Laura. Sì, buongiorno a lei. Allora, io a causa di disordini ormonali prendo la pillola. Sì. E tra questi disordini ormonali c'è l'acne, caduta di capelli, ritenzione idrica. Sì. E specificamente per arrestare la caduta di capelli prendo anche l'integratore biologico vitaminico. Sì. Che contiene appunto anche B2. Per quanto tempo è consigliabile continuare ad assumerlo, questo integratore vitaminico? Dottor Vitobello. Ma l'integratore vitaminico, se non ha altri deficit, può essere assunto nei dosaggi raccomandati anche per lunghi periodi. L'importante è non aumentare i dosaggi, naturalmente. Lunghi periodi cosa intende, dottor Vitobello? Ma anche per qualche anno, naturalmente. Anche per qualche anno. Poi io penso che la signora magari, quando poi avrà una gravidanza, naturalmente sospenderà anche tutti questi integratori che risolve il suo problema anche dei disordini ormonali. Tiziano, della provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per l'opportunità. Dunque, volevo chiedere riguardo mia figlia, sì, che diciamo soffre veramente parecchio durante la sindrome premestruale. Sì. E l'abbiamo portata ovviamente allo specialista che gli ha consigliato di prendere la pillola. Quanti anni ha, mi scusi Tiziano? 15 anni. Ha iniziato a 12 anni e ha iniziato subito a star male, soprattutto diventava molto pallida, vomitava, una cosa di questo tipo, sì, forti mal di testa, e gli ha consigliato una cura a base di ferro. Ora io volevo sapere se questa cosa si può protrarre nel tempo e se non crea, controindicazioni. Certo, Tiziano. Dottor Vitobello, per alcune ragazzine così giovani come la figlia di Tiziano, le mestruazioni sono davvero una croce. Allora, lo specialista propone la pillola, Tiziano si interroga. Lei che cosa suggerirebbe? Ecco, allora, se parliamo di sindrome premestruale, chiaramente la pillola può avere il suo effetto. Non dimentichiamo che possono essere prese in considerazione altre sostanze, diciamo così, naturali, che come ad esempio l'agnocastro, che è una sostanza che può essere assunta anche a 15 anni senza problemi e che può risolvere o attenuare di molto la sindrome premestruale. Se parliamo di dolori mestruali, naturalmente in età anche a 15 anni può essere assunta la pillola senza problemi se ci sono le indicazioni e se gli esami sono Certo, ma ad esempio due ascoltatrici mi scrivono: mia figlia giovane, una 17, l'altra 16, il ginecologo le suggerisce la pillola, ma mi chiede iniziare la pillola così da giovane può alla lunga portare dei problemi? No, nel senso che non porta dei problemi anche iniziare in età così giovanile. D'altronde abbiamo l'unico mezzo, diciamo così, l'unica sostanza, l'unico farmaco, se vogliamo definirlo così, che può effettivamente risolvere i problemi degli adolescenti. Allora, dottore, presenza di dolore pelvico durante la mestruazione, abbiamo detto nella maggior parte dei casi è fisiologico, ma a volte può rappresentare un primo segnale di endometriosi, una patologia benigna frequente nell'età fertile della donna. Soprattutto se il dolore è intenso, l'indicazione è quella di indagarne le cause per arrivare al più presto a un'eventuale diagnosi di endometriosi e mettere in atto la terapia più adeguata, che può essere medico-chirurgica. Detto questo, dottor Vitobello, che cosa possiamo aggiungere? Come voi fate, come riuscite a fare diagnosi di endometriosi e tutti i tipi di endometriosi, tutti i casi di endometriosi possono provocare dolore? Allora, innanzitutto la diagnosi di endometriosi deve essere mirata sui sintomi. Ad esempio, come spiegavo prima, l'endometriosi può essere localizzata su alcuni organi, sì. Quindi ad esempio dolore alla defecazione durante le mestruazioni, ad esempio con sindrome occlusiva, quindi con stipsi importante, potrebbe essere un segno di un'endometriosi intestinale, sì. Dolore alla diuresi, a urinare durante il periodo mestruale, magari con sangue, questo può essere un segno di endometriosi vescicale. Faccio dei casi naturalmente un po' estremi, certo. Però giusto per far capire che sicuramente la ricerca dell'endometriosi, del sito dell'endometriosi dove crea un danno d'organo, è veicolata sempre dall'anamnesi, quindi dal racconto della paziente. Poi? Esistono dei dosaggi, come ad esempio il CA-125, che non è sensibile, non specifico per l'endometriosi, ma che può, se elevato, se alterato, può orientare, insieme con tutto l'altro corollario di sintomi e di esami specialistici, può orientare verso una diagnosi. E una volta che è arrivata la diagnosi, dottore, si lega sempre endometriosi e problemi di fertilità. La relazione è sempre scontata? Purtroppo non, sì, nel senso che l'endometriosi, creando delle alterazioni all'interno dell'apparato genitale, a livello delle tube e delle ovaie, rende più difficile naturalmente la fecondazione, e quindi vanno spesso di pari passo. L'altro grosso problema è che l'endometriosi come sintomo può essere curata con l'assunzione dell'estropoligestinico della pillola, ma ripeto, ma siccome le pazienti o le donne cercano figli, non può essere somministrata, quindi è veramente difficile per il terapeuta trovare la via giusta per attenuare il sintomo e curare la malattia e facilitare la fecondazione. E tanto che molto spesso si ricorre all'intervento chirurgico. Certo. Che adesso, per fortuna, la chirurgia mini-invasiva è risolutiva e riesce a risolvere veramente gran parte degli interventi chirurgici anche per l'endometriosi. Sì, sicuramente la via laparoscopica, ormai da su utilizzo il robot, quindi ci sono sempre delle tecniche sempre più avanzate che possono facilitare questo intervento rendendolo meno invasivo senza il taglio sull'addome, quindi rispettando anche l'integrità corporea. Tuttavia ogni intervento deve essere idoneo per quel tipo di endometriosi da risolvere. Io intanto voglio salutare Lisetta Landoni, presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano. Buongiorno dottoressa, signora Landoni. Grazie dottoressa, lei buongiorno. Allora, noi abbiamo anticipato che sarebbe intervenuta per darci una mano. Abbiamo parlato di agopuntura, vogliamo parlare anche di yoga. Alcune posizioni yoga ci danno veramente una mano, sono una sorta di pronto soccorso. Esattamente, esattamente. In particolare una, quella che è considerata tra tutte la posizione regina, ed è la posizione sulla testa. Ovviamente difficile, è la però più idonea a combattere i dolori mestruali, proprio per la sua azione decongestionante dell'area pelvica e aggiungo anche delle gambe, però non è così facile da fare e tantomeno mi sentirei di dire a tutti: mettetevi tutti sulla testa in questo momento, insomma, perché ci vuole una buona preparazione. Allora suggerisco in alternativa una posizione più semplice da fare, che possono fare tutti, anche volendoli in redazione in questo momento per caso, sì. Ad esempio anche Pietro La Corte mi fa cenno, la faccio anch'io, che a lui esattamente sì. Che è molto più semplice, gli effetti non sono così complessi concreti, però sono ottimi in ogni caso. Ecco, la posizione sarebbe questa. Allora, ci si sdraia a terra in posizione supina e si scivola con i glutei in direzione del muro, di un muro di fronte a noi. Poi si appoggiano le gambe al muro. Puntando i piedi e tenendo le mani a terra, si solleva il bacino più in alto possibile. Non so se rendo l'idea così in maniera corretta. Dottor Vitobello, lei l'ha imparata così, la suggerisce anche alle sue pazienti? Sì, mi sembra un'ottima posizione. Ha capito anche il dottor Vitobello, che è ginecologo. Allora, è uomo. Praticamente a terra rimane la testa, rimangono le spalle, il trapezio, eccetera. E invece in posizione perpendicolare o quasi, si rimangono alza il bacino. Le gambe, i piedi, il bacino, ovviamente, eccetera. Ecco, è chiaro che il bacino deve essere spinto più in alto possibile e la posizione va mantenuta. Ecco, mantenuta, poi dopo uno all'inizio potrà avere un pochino di fatica, poi scioglie, poi magari la ripete, insomma, comunque se uno è soggetto a disturbi di questo genere sicuramente può contare sul significato, sul valore, sull'utilità di un intervento di questo tipo. Tenendo conto che anche un corso di yoga, quindi che aiuta, no, insegna la respirazione, ecco, quindi a tonificare anche i muscoli e nello stesso tempo a rilassarli quando è necessario. Non solo, noi sappiamo, mi scusi se la interrompo, ma lei sta dicendo una cosa fondamentale, ecco, sappiamo benissimo che anche nei disturbi mestruali, i dolori, eccetera, c'è una componente psichica, non da poco, psichica, psicologica, insomma, dove la respirazione ha un ruolo determinante. Quindi se noi facciamo le nostre solite semplici posizioni, anche se stando in quella posizione che ho detto prima, o semplicemente in posizione supina, ecco, ci adottiamo questa che si chiama Sukha Pranayama, che vuol dire tanto inspiro, tanto espiro con il naso, quindi evidentemente si conta, molto rilassati, le braccia, le spalle, gli occhi chiusi, e questo sicuramente comporta un grandissimo benefico effetto. Allora, abbiamo cercato di capire l'origine, le cause di questo dolore, abbiamo sentito il dottor Vitobello, abbiamo esplorato anche tutti i disturbi delle disfunzioni del ciclo, ci siamo affidati alla terapia, alle integrazioni, alla chirurgia nel caso di endometriosi, all'agopuntura e allo yoga. Insomma, vi abbiamo dato tutte le indicazioni per stare meglio. E allora buona giornata ai miei ospiti, al dottor Vitobello, a Lisetta Landoni. Buona giornata a voi che ci avete seguito. Vi ricordo che lo specialista del mese di Humanitas risponde proprio in questo mese ai dolori mestruali, all'endometriosi. Quindi collegatevi, noi siamo comunque sempre qui. Essere benessere @radio24.it. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.